Mario Mara Pasqua, però senza ombrellone si scalata, accattiamo una birretta. Non ho soldi. Ma che fai? Mimmo, solito problema. Il difficile non è fare lo spettacolo e venderlo. Ho mandato una mail all'assessore che forse organizzava una serata su Dostoevskij. Voglio vedere se mi ha risposto, ma non c'è campo. Per forza, un cellulare di dinosauri. Allora, chiedo me. Allora, sulla tua mail ci mi dà la password. No! M'ha risposto! No, leggi. No, guarda un po' che m'ha scritto. Bello, Dostoevskij, ma ci spiace, no, non facciamo danza. Ma perché devo sorbirmi sti cretini? Io che mi sono fatto un culo così in accademia per studiare il metodo Stanislavski dell'immedesimazione. Tu pensa che io per piangere ai funerali dei miei parenti devo prima immaginarmi tutti i cazzi di Amleto, eppure sto a spasso per colpa di questo. Però, tu, mamma mia, proponi Dostoevskij. E usa che la danza non tira. Ma non c'avevi la compagnia? Tre mesi fa mi da prove hanno delocalizzato lo spettacolo in Polonia perché lì la manodopera attorale costa meno. Cioè, qualità scadente con i titoli taroccati. Noi Amleto, non Ambleto, noi Otello, non Rostello. Allora sono tornati e ho detto adesso lavoriamo sul caso di bambola. Bello! Però ti paghiamo se incassiamo le repliche. Io ho detto no. Poi non lo sopporto Ibsen, dopo un po' che lo leggo mi viene ad aprire un mobilificio, no? Perciò... Mi stai ascoltando o no? Sì, sì, sì, sono, ti sento meglio. Poi un amico mio, un regista del teatro della terza età, mi propone un lavoro. Una cosa comica che già la gente ha i problemi. Il Miles Gloriosus di Plauto, soldato fanfarone. Lui ci ha fatto tutta una rilettura. Volevo dirle sì, perché una prima lettura non ci hai capito una mazza. No, ho pensato a te per la parte del servo. Sai quello che loda il padrone, no? Che gli dice, oh, Pirgo Polidice, mio padrone, come sei forte, valoroso. Pensa, che marchetta con tutti quei tromboni che declamano sto testo di 2000 anni fa. Ma perché devi fare il caso di un anno? Perché mi paga. Lui, in effetti, lui fa ancora questa cosa vecchia scuola di pagare gli attori, in effetti. No, ma so cosa pensi. È proprio perché la gente ha i problemi che non dobbiamo rivolgere lo sguardo al passato, sarebbe una scelta di disimpegno. Noi teatranti, invece, dobbiamo recuperare il valore sociale e contemporaneo della nostra arte, fare un teatro impegnato, un teatro civile. Per me è vecchio pure quello. No, infatti io ci provai a rinnovarlo il genere. Te l'ho detto. Io ho inventato il teatro incivile. E non civile, incivile. Un genere nuovo. Cioè, faccio sempre solo gli spettacoli di teatro su Piazza Fontana, G8, Usti, Canzone di Bologna, Pardolini. Però io do ragione agli stragisti. Difendo il sistema, sostengo lo Stato, riabilito la P2, che è una cosa che non fa nessuno. A teatro. Impostai tutto un progetto a lungo termine per proporlo a uno stabile, una trilogia che parte con una pièce sulla maglia dal titolo Fatti i cazzi tuoi, dove spiego il fenomeno dell'autocombustione dei negozi a Palermo, prosegue con uno spettacolo sugli anni di piombo intitolato Aldo Moro un po' se l'è cercata, termina con un non cattivo ma impulsivo dedicato a Hitler, questa incolpevole vittima dell'espansionismo ebraico. Sottotitolo The Shoah Must Go. Oh, non me l'hanno accettato, sai? Ma per forza, però, tu fai sempre queste tematiche cruente, così, queste tragedie. Perché non fai un argomento più tranquillo, più leggero per tutti? Più distensibile, non lo so, ma più quotidiano. Se adesso facciamo il teatro civile, non sulle tragedie, ma sui piccoli incidenti domestici, no? Quel rubinetto perdeva! E la Maria del piano di sotto diceva, questa goccia non si può mica dormire! Misteri, devi starci, perché non fu chiamato di trauma? Mi il teatro di denuncia in Svizzera. Come è possibile che un paese civile il treno da Zurigo arrivi con 7,2 secondi di ritardo? Mimmo, ci vogliono i morti, se no l'italiano meglio non partecipa. Meglio se c'è l'anniversario, la coscienza, sai, 10 anni da, 50 anni da, 150 anni da, ma soprattutto, primo, ci vuole un argomento che non sia stato ancora mai trattato in nessun altro spettacolo. E purtroppo in Italia se ne sono già presi tutti. Tutte le stragi sono già occupate. Per fare uno spettacolo sulle vostre abbiatine, l'ha fatto Celestini, sul G8 Cavalli, su Aldo Moro Bagliani, sul Bayont Marco Paolini, su Ustica sempre Marco Paolini, maledetto Paolini, il giovane di tutti. No, anche là lo puoi fare, non lo so, sugli annegati mentre venivano in Italia con le bacchette. Ho fatto Renato Sarri. Come sei? E internet. Sul dramma dell'immigrazione. Mario Perrotto. I bombardamenti in Sicilia nel Davide 40... Mia. Le vittime di Marcinelle. No, Corelia. Ti incazza che su internet, scusa. No, lo sapevo per i fatti miei, solo che si è scaricato un cellulare. Oh. I tumori dell'Ilva di Taranto. Ah, non mi ricordo il nome, ma l'ho visto. La ritirata di Russia. Ma Paolini, sergente sulla neve. E che cazzo, sergente Marco Paolini? È possibile che se ne fregate tutte lui le tragedie? È possibile che in Italia ogni volta che c'è una strage arriva prima Bertolaso, poi Paolini con lo spettacolo? No, che a volte arriva prima Paolini di Bertolaso. No, i miei soccorsi, mi sono venuto a raccontarvi che siete nella merda. Poi Paolini, l'ingordone maledetto e preveggente. Le sfide che sarebbero successe in Italia lui 30 anni fa già le conosceva e si è scritto un spettacolo in anticipo. Ne ho le prove. Lui debutta con I Miserabili sulla crisi economica. Te pareva che ce la lasciava quella. Nel 2007 che stavamo bene. Poi nel 2008 tac, crolla delle banche. Capito Paolini? Lui si è fottuto perfino le tragedie del futuro. Se facessimo una cosa, io e te andiamo in una bella piazza affollata e ci mettiamo una bomba per poi essere i primi a farci su quello lo spettacolo di teatro civile. Dopo 2 ore siamo già là, pronti con la PS, fottiamo Paolini e Bertolaso. Poi chi meglio di noi può farlo? Sappiamo in retroscena, ma tu immagina che sorpresone in finale quando riveliamo che siamo stati proprio noi a metterla la bomba. Mimmo, svoltiamo, anzi lo intitoliamo proprio Amo fatto erbotto, Mimmo! No, io mi piglio una birra e mi faccio un bagno, Pasquale. Mi? Sto scherzando. Allora me ne vado davvero! Tu mi chiami qua per parlare di un progetto e non c'è manco l'idea! Io ho già perso un matrimonio per me venire qua! Parlo di arte, di teatro impegnato e di suonare matrimoni. Cioè in 3 mesi che non lo vedo, mo ci ho messo sul business lui. Quanto cazzo mai ci perdi a matrimonio? 500. Dai. Quanto? 500 euro. E non mi hai chiamato mai tu, eh? Ma manco a tenere i bambini, faccio i palloncini, niente proprio. Perché tu sei nato a un certo livello, io non ti volevo disturbare, mi vergognavo. Tu a terza parete, un metodo di rischio, un raggiuncino. Sembra sia un attore impegnato. Impegnato non significa che ho troppe cose da fare. Comunque, colpa mia se non c'è sfiga su cui qualche pazzo non ci ha già fatto lo spettacolo. Sui manicomi! Celestino! Aspetta. Sui soldati italiani morti per l'uranio impoverito. No, Bagliani no. Celestini, ma Mimmo, sei un genio, merito tuo, l'abbiamo trovato, ma come abbiamo fatto a non pensarci prima? Ma certo, facciamo uno spettacolo sui soldati italiani morti per l'uranio impoverito, geniale, e non se ne è mai occupato nessuno, e no! E no, perché sembra che in Italia i soldati morti sono solo quelli di Nasseria. Ma certo, ma Mimmo, facciamo un sacco di date, un sacco di soldi. Ma tu ci stai? Ma che mi sa che di documentazione c'è da fare un lavoraccio? Se sei convinto che funziona, io ci sono. Funziona, tu sei sicuro? Guarda che ci vuol tempo per farlo bene. A quel punto io mollo la proposta del Miles Gloriosus, che sono soldi. A te non so se resta tempo per il matrimonio. Pensaci. Ci sei? Ma sì. Ma come ne ti senti? Sì. Tranquillo. Beh, allora, scusa, io corro subito come è venuto il flash. Allora, vado subito, corro a cercare documenti, giornali, interviste, internet. Insomma, ci diamo 4-5 giorni di ricerca. Poi ci vediamo in sala lunedì mattina alle 11, insomma. E vabbè, niente, vado, perché mi è venuto proprio il flash, io me ne sto andando, sai? Ti posso chiamare per un consiglio? Io ultimamente ho suonato solo cose tipo non dirgli mai di Gigi D'Alessio. I soldati morti con le canzoni della sposa, direi che no, eh. Però vabbè, chiamami, tranquillo. Immaginati la colonna sonora dello spettacolo. Vabbè, tranquillo, chiamami, tranquillo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ma che cazzo è sto rampolveri? Il nemico con gli ordigni della sua tradizione musicale, sono, sono. Sapore di sale, sapore. Più ballato. Estate 1999, i muri delle città di mare dell'Adriatico sono pieni di scritte. Fermare le bombe, non sporcare il mare con l'uranio. Intanto non sporcare i muri con le scritte, però, eh. E dopo la guerra! Forza internazionale di pace inviata dalla NATO in Kosovo con operazioni di peacekeeping e ricostruzione. È composta da militari di 40 nazioni, ma gli italiani sono i più numerosi. 2000 soldati, soprattutto del sud, stanziati a Villaggio Italia, la base a Perco, a raccogliere i nostri ragazzi. La disperazione! No! La musica! La voglia di ricominciare della gente! Perché tu italiano, e tu bravo, e tu aiuta. Eh sì, perché noi siamo qua per servire la patria. Eh? Per servire la patria. Eh? Per servire la patria. Guarda che se la mia patria, tu devi pigliare lo stesso stipendio di quando stai a casa, non per pigliare. Come al solito, quando è in gita, piglia di più. È giusto? Perché rischia? Noi qua rischiamo di morire! Di noia! Eh sì, perché è finito il lavoro, l'unico divertimento, a parte le femmine. Billy, ciao, Luca ne mascotte. Poi le partite a calcetto, la porta, un vecchio caronato servo e poi soprattutto le telefonate a casa, pronto! Sì, sono io. No, tranquilla mamma, sono un po' di tosse, sto bene. Un po' raffreddato, la giacca a vento? Ce n'è solo una. La taglia del sergente che c'era prima, non me la metto, quindi. Ancora questa storia. Basta! I giornali dicono cazzate, non c'è niente, c'è uranio. Ho parlato pure col capitano, mi ha detto, tranquillo, sti americani stanno costitute e sti scafandri che sembrano marziani perché so fanatici. Oh, st'estate manco a 40 gradi si sono tolti. No, sì, ma avevo mal di pancia, ma vede la mensa. E sì, ma il ciclo alimentare. Oggi bistecca. Non te la mangi, domani polpettone. Dopodomani carne macinata nella pasta al forno. E poi l'insalata di mio culore, guarda che E ce l'ho fatto, ma ripristino delle linee telefoniche sbombardate. No, ma poi se non era di noi, sti americani, proprio, no, noi non andare, no. Per noi troppo vicino a palazzo bombardato, noi non fa, noi fa con un pinzine. Mi era la mia, guarda a me, lo... No, americani, non tedeschi. E non lo so ciupare, americani. Alla fine però noi siamo andati con le mani a prendere sti figli, per quella a noi la gente ci vuole bene. Ah, ci tira dita sta cosa alla Lucia. Io da femmina mia non aggiunti niente, perché poi capisci male, ti la dice e ti preoccupi. Non è successo niente a Lucano, lo vedi, sì, è stato un incapiato. Si vede che hanno dato una puttetta della mensa, perché... Comunque dinne, a guai, femmine, non ci andare, no, no, no, sì, ma... No, ce l'abbiamo i guanti, sì. Di lana, miei sono. E ma, prendiamo 3 milioni e 8 al mese. Si può rischiare un raffreddore? Vabbè, dai, no, domani, dai. Dai, non è tardi, non dal letto, ma dai, ma alza se traffa, sono allo silenzio, buttato di così, dai, dove stai in bagno? Ciao, ciao, domani, ciao, ciao, ciao. Sembravano ridicoli, ma adesso abbiamo dei dubbi. Anche nel nostro deposito, in effetti, 3 tute ci sono, ma ci hanno detto di mostrarle se vengono i giornalisti. Poi, durante la missione di ieri, era previsto che indossassimo maschere antigas, che c'erano, ma i filtri erano stati scordati dal capitano responsabile e denunciare la cosa significava farli passare un guaio. Perciò senza niente siamo andati lo stesso. Ora siamo vicini ad un poligono dove sembra hanno sparato ordigni all'uranio impoverito. Ciò che scrivo non lo posso provare, ma le voci girano pure qui. Il nostro cane, una specie di mascotte che razzolava intorno alla base, abbiamo trovato morto. Potresti informarci per non sollevare un polverone inutile. Guaglio! Sveglia! Giù dalle bronde, sacco di merda! Attenti! Ripo! Allora, devo leggermi sta circolare che è arrivata dall'Italia, così la finiamo una volta per tutti questa storia. Allora, vedete, del 26 maggio del 2000. Oggetto. Precauzioni in caso di ritrovamento di proiettili all'uranio impoverito o di frammenti di esso. Ma viene dal Ministero, precisamente dalla Commissione Tecnico-Scientifica su monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico radioattivo nell'area balcanica, che a sua volta l'ha avuto dalla NATO. La NATO ha comunicato di aver impiegato in Kosovo proiettili con penetratore da 300 grammi di uranio impoverito. Esso è tossico e pericoloso se il proiettile è entrato in collisione con un blindato. Cioè, quindi niente più cacciato vicino al carro armato? No! Non raccogliere i proiettili, segnalarli alle forze armate più vicine. Siamo noi le forze armate. Ah, più vicine, al collega più vicino. Se è indispensabile raccogliere i proiettili affinché la popolazione locale non ne venga in contatto, ma non tenerli a contatto delle dita per tempi prolungati. Ce li passiamo tipo giocolieri. Usate pinze o guanti di plastica. Capirai, fino a mo' non si è mai fatto così. Devono essere inseriti in un involucro di metallo o di plastica. E dove stanno questi involucri? Ah, vicino ai filtri delle maschere antigas. Per limitare rischi di inalare polvere di uranio, proteggere le vie respiratorie con qualsiasi tessuto, va bene pure uno fazzoletto. Ma tu, me lo diceva sempre mia madre prima di partire. Copriti. Non mangiare, non bere, non fumare. Lavare accuratamente le mani dopo ogni operazione. Lavare le mani, non fumare. Ma sta cosa l'ha scritta la Nato o mia madre? E soprattutto, evitare di sollevare polvere. L'ha scritta mia madre. Evitare di sollevare polvere. Con le pattine in guerra! Oh, non sarà bombe intelligenti, però sono pulite. Pasquale, però così non si capisce, eh? Come non si capisce? Ci ho messo anche una lettera autentica arrivata al ministero. Ma semmai il problema è che è troppo proprio didascalico l'arrivo dei primi allarmi dei soldati. Meno male che l'ho fatto in dialetto, se no in italiano che cazzo capivi? No, secondo me devi spiegare bene chi è sto radio impoverito. A parte che sennò viene fuori la solita proprio narrazione alla Paolini, vedi proprio, no? Poi la ricerca che ho fatto, che hai visto quanto mi sono documentato io, mica come te. Insomma, è troppo complicata, tutti i termini scientifici, tu non la capiresti. Ma che sono deficiente io? Scommettiamo che la capisco. Mettiamo una birra che non la capisci. Sì. Dai. Andata. Dai, siediti là. No, così perché faccio un test. Perché se è chiaro a te che sei vergine della cosa, allora sicuro capirà anche il pubblico. Allora, l'uranio, poverito, è uno scarto industriale della lavorazione dell'uranio naturale. Non è raro, in natura è mille volte più abbondante dell'oro e tu te ne respiri 4 microgrammi al giorno. Ha molti usi civili, oltre a combustibile nelle centrali e nel macchinario dei raggi X del medico in ospedale, ma soprattutto, essendo il materiale più pesante che c'è, l'elemento più pesante, proprio 1 cm³ 20 grammi, doppio del piombo, viene usato come peso nella trivella che affonda nel terreno a cercare il petrolio dei pozzi. Quella che ha salvato lì i cileni, quella che si è rotta nel golfo del Messico, erano gli urani. Anche nelle aeree pure ci sono contrappesi di urani. Tanto che quando un aereo precipita, no, i passeggeri... Ah, non muoiono per lo schianto, perché si sono respirati in urani. E per vedere se ho capito. Preciso. Ma com'è che non ti hanno fatto assessore? Vabbè, l'uranio naturale è composto da... Ma che stai facendo? Che fai? Segni! L'uranio naturale è composto da 3 isotopi. Vabbè, c'è l'uranio 238, che è il 99,3% di tutto. Poi c'è l'uranio 235, quello buono, che è solo lo 0,7%, e poi c'è un pizzico di uranio 234, quello che è chiaro. Ciò che li distingue è la massa atomica, il peso, ma anche il fatto che l'uranio 235, quello buono, è l'unico che può dar vita alla fissione nucleare. Però l'uranio così come lo estrai, perciò non lo puoi proprio portare nelle centrali, perché di uranio 235 ce n'è troppo poco. Allora che fai? Processo di arricchimento, una specie di colletta nucleare, cioè si passano gli elettroni da un atomo all'altro, cioè metti che in una sala ci sono 100 persone, no? Prendono i soldi di tutti e li danno solo a 2 di loro, quelli sono arricchiti, gli altri sono impoveriti. Perciò con arricchimento da 10 kg di uranio naturale ottieni soltanto 1 kg di uranio arricchito, cioè di uranio, dove l'iniziale percentuale di uranio 235, quello buono, giusto, è passato dallo 0,7 al 4, 5%, e quello lo puoi usare nelle centrali. Il resto, 9 kg di scarto, quasi tutto U238 e il famoso uranio impoverito. E che ci fai? Costa $2 al chilo, eh? Spenderesti un sacco a stiparlo correttamente se non fosse che anche l'uranio impoverito è straordinario. L'idea di usarlo nelle armi risale al ministro di Hitler, Speer, nel 1942, intuizione raccolta negli anni 70 da Israele, ma dagli anni 80 l'uranio è usato regolarmente nella costruzione di armi dall'industria bellica americana. Perché? Perché non è solo il materiale più pesante, è anche il più duro. Cioè, se tu ci fai con l'uranio un penetratore o una testata e lo metti sul davanti di un proiettile o di un missile, questo acquista con la velocità un incredibile potere penetrante, cioè buca le corazze come fossero di burro, perché resta affilato. E risolvi anche il problema della scoria nucleare, perché tu americano sai che lo andrai a sparare all'estero. Non solo, quando in polvere l'uranio è anche piroforico, cioè con l'impatto parte della testata si frantuma e quando trova l'aria dall'altro lato brucia ad una temperatura di oltre 3000 gradi. E con quel calore l'uranio e tutto ciò che nel raggio dell'esplosione sublima, cioè si smaterializza, cioè passa all'istante dallo stato solido ad un particolato di polvere finissima e nerastra che poi si deposita, insomma, lì, insomma si deposita sul terreno, insomma. E quindi sono microparticelle di metalli pesanti, cromo, ferro, zinco, più piccole ma simili alle polveri dell'inquinamento da smog. E al microscopio hanno una forma sferica e una dimensione, pochi millesimi di microni, che di norma in natura non hanno, ma che possono assumere appunto solo con esplosioni oltre i 3000 gradi. E sono così piccole che una volta che te lo sei respirate non vanno via, perché vanno proprio negli alveoli, nel DNA, fanno infiammazioni. Allora, potresti usare il tungsteno al posto dell'uranio, 25 volte meno inquinante, ma un po' meno duro. E poi, soprattutto, si estrae soprattutto in Cina il Mao Zedong steno. E tu, Pentagono, vuoi chiedere le armi ai comunisti? No! E allora, a partire dalla prima guerra del Golfo, cari ambati Abrams, aerei Wartok, degli elicotteri Apache vengono muniti con proiettili di gusto uranio. E ma solo l'esercito degli Stati Uniti ce l'ha! Quindi che invidia il racconto di un Marines, un caro americano, spara un proiettile all'uranio impoverito che perfora da parte a parte un caro armato iracheno per poi penetrare in un altro caro armato iracheno subito dopo e prima che la forza del proiettile muoia lì sulla tua diretta, entrambi i caro armati iracheni sono esplosi! Però succede che i Marines tornano da Bassora con la tosse, stanchezza cronica e poi muoiono. E dopo tanto tempo. Anche per questo non hanno attenzione mediatica. Ma scusa, che non è come morire, per esempio, a Nassiriya. Che cazzo c'entra adesso Nassiriya che sto parlando degli americani? Però sì, hai ragione. Non volendo beccare il punto, perché la morte per attentato si presta meglio alla modalità narrativa di oggi, no? Ti muore tutto un colpo. Tragedia che ti è mangiata, con ritmi televisivi, vuoi mettere, arriva l'aereo con le bare, funerali col presidente, è un'altra cosa. E invece muoiono spazio nel tempo, nello spazio. Sono morti di serie B, che non si caga nessuno. La birra. Ma dico tutto chiaro. Sì, sì, sì. Ti chiederei di ripetere. Ci sono tanti tipi di uranio, così tanti che gli hanno messi i numeri, tipo 125, 122. E il più grosso di tutti si chiama impolverito perché si impolvere, che l'ha scoperto Mao Zedong, l'hanno trovato nei carri armati, nel burro, si sono incazzati gli americani, i Marines. Ma scusa, l'ho capito cos'è l'uranio impoverito. Bring freedom. Ma poi bombardamenti, anche qui arrivano i soldati italiani. Seconda guerra del corpo, comandamenti di corpo agli piani murali, muore lì. Ma cagare! Ma molto, eh. Ma quando mi fai le musiche degli spettacoli è la puttanata più grossa che ho sentito. Cioè questo sarebbe il frutto di 5 giorni di ricerca. Sì. E di che non hai fatto niente, minimo, dai. Però quei soldi degli spettacoli dobbiamo vederli in due. Piacere, perdiamo tempo, va. Riproviamo l'unica scena e funziona. Guarda l'altro giorno. Dai, fissiamola bene che l'ho imparata a memoria. L'unica scena precisa e seria che abbiamo. Striscia ia ia io. Il capibbo, le merine e il signor Greggio. Questo ragazzi. A fine anni 90 la vicenda Uranio in Italia è solo una vocina stonata che sguscia tra i soldati e ogni tanto guizza su un giornale dal mare di indifferenza. Ma nel 99 un soldato di fresco ritorno dalla Bosnia, Salvatore Vacca, muore. Leucemia. Non solo, alcuni dati indicano un aumento in Iraq di 7 volte il numero di tumori fra i civili e nei Balcani di 5 volte il numero di bimbi malformati partorite da quelle donne lì. Siccome anche in Italia altri soldati accusano malessere dopo le missioni, allora un maresciallo dell'esercito, che è anche membro del COCE, del sindacato militare, di nome Mimmo Leggero, decide che è il caso di vederci chiaro e indaga. Ma non è solo, si formerà nel tempo una specie di comitato anti-uranio. C'è un avvocato, Angelo Tattaglia, una dottoressa, Maria Antonietta Gatti, ufficiali dell'esercito, Carlo Calcagni, Enrico Laccetti, il comitato gettiamo le basi in Sardegna, la Navaf di Falco Agame. La causa di tutto sono i vaccini iniettati tutti insieme ai soldati arruolati, dice qualcuno, ma è un'ipotesi che non regge. E quando i primi sospetti vengono confermati, Leggero decide di andare avanti. Anche se in quegli anni a parlare di uranio rischi una denuncia per procurato allarme. Ma ottieni poco se non attiri l'attenzione pubblica, insomma, se non ne parlo alla TV. Allora Leggero contatta il TG5, no, e allora Maurizio Costanzo, no, non sono interessati, ma allora dai, vai. Ma certo, ma dall'unico tribunale che in Italia assicura rapida soluzione ad ogni vicenda, il TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, no! Il tribunale Antonio Ricci! Leggero, va a Striscia la notizia! Perché quando in Italia subisci un'ingiustizia, mica vai l'avvocato, no, vai a Striscia! Pure loro hanno i gradi di giudizio. Primo grado, visita del capibbo. Appello, nodo al mazzoletto di Capitan Ventosa. Cassazione, il tapiro di Staffelli! È il novembre 2000. Negli stessi giorni in cui concorda con Jimmy Iovo di Striscia un primo appuntamento in un parcheggio buio, che non si sa mai, Leggero è contattato da Andrea Antonacci, di Lecce, altro soldato tornato dalla Bosnia con un canto. È debolissimo Andrea quando Leggero lo va a trovare, ma lui per primo accetta la proposta di offrirsi sì alle telecamere di Striscia perché tanto ha poco da perdere. Allora arriva a casa sua Jimmy Ghione, ci mettono 3 ore a fare 2 minuti di intervista con Leggero che lo aiuta a parlare. Va in onda il lunedì dopo, 10 milioni di italiani vedono la sua faccia scavata, si appassionano alla vicenda Uranio e poco tempo dopo quella puntata Andrea Antonacci, rivelando somma padronanza dei tempi televisivi, muore. È per quello che la vicenda Uranio per un po' è al centro dell'attenzione dei media. Eh sì, allora il Ministero della Difesa, prestato soprattutto dalla stampa sarda, diffonde una nota ufficiale. 2 punti. Esprimiamo solidarietà e cordoglio alla famiglia, ma dobbiamo altresì precisare che Antonacci, come vacca, non ha prestato servizio in Kosovo, no, ma in Bosnia. E lì non furono usati proiettili dall'uranio impoverito, come peraltro dichiarò il ministro della difesa Mattarella in Parlamento. Ma il giorno dopo, 22 dicembre 2000, arriva in Italia un'altra nota ufficiale, stavolta dalla NATO. Due punti. Il T di armi usato dalla NATO non è mai stato segreto militare. Anche in Bosnia la NATO ha usato proiettili dall'uranio impoverito e lo ha comunicato a suo tempo come la prassi agli stati maggiori dei paesi membri. Ripetiamo, 31.000 proiettili in Kosovo, 10.000 in Bosnia, sparati da aerei partiti da Aviano. Riteniamo che in Italia informazioni cruciali per la salute dei soldati non abbiano compiuto il giusto percorso. Lo scandalo adesso vive il suo apice, ne parlano tutti, se addirittura Vespa e Santoro ci fanno due puntate. Allora, le segnalazioni al maresciallo Leggero si moltiplicano al punto che l'osservatorio militare, da lui fondato per tutelare i militari, attiva un numero verde in cui poter segnalare eventuali malattie. Solo che all'inizio questo numero non è gestito dall'osservatorio, no, ma dal ministero. E anziché raccogliere e catalogare le denunce, casi insospetti, la voce all'altro capo del telefono le scoraggia. Chiama il soldato malato? Se stai zitto ti aiutiamo con un lavoro. Chiama il parente del soldato già morto? Signora, sì, per vedere se suo figlio è morto di uranio bisogna riesumare la salma. Sì, è la prassi. Conclusione, i vertici militari sapevano, furono informati che dove mandavano i soldati erano stati sparati proiettili all'uranio impoverito, ma sapevano anche che fa male. La vibrazione del cellulare, scusa. Pronto! Ciao carissimo, no, non mi disturba affatto, dimmi, sto provando. Ah, lo senti? Grazie. Scusa. Pronto? Ok, no, niente, volevo dirti, guarda, ci ho pensato alla tua proposta e purtroppo non avrei tempo. Guarda, mi dispiace tantissimo perché io vado pazzo per l'auto, per il Miles Gloriosus, ma veramente non posso. Sì, perché... No, perché sto lavorando grande, sto lavorando con un mio spettacolo sui soldati morti. No, non quelli di Nasseria, quelli dell'uranio impoverito. Essi non hanno fatto nessuno. Eh no, l'ho vista la tua proposta economica, anche per quello mi dispiace. No, no, vabbè, però magari... No, non lo senti? Cazzo, sì, no, so che avete un sacco di date. Ma è vero che l'assessore va venuto pure a festa del jazz che ha scambiato Miles con Miles Davis, è vero? Vabbè, senti, però, guarda, magari avremo altre chance in futuro, però guarda, se cambia qualcosa, ti chiamo. Grazie, comunque, beh, merda a te, merda a me, grazie, ciao, ciao. Allora, dove eravamo? Ma che ne so? Non mi ricordo. Allora. Poi sono io quello che non fa niente, no? Tu ma ti ricordi un testo. No, adesso c'è il monologo, quello delle cifre, però siccome che è un po' il più ostico, allora... Senti, Einstein, l'ha detto tu che l'ha studiato. Vabbè, scommettiamo che non ricordo tutto. Dai, scommettiamo. Una birra? Una birra. Dai che sono due poi. Va bene, andiamo. Allora, controllo. Così non guardo, controllo il testo. Allora... No, lo so, aspetta. Allora, già nell'ottobre 78 Uno studio del poligono di Eglin, Florida, stabilì che solo l'esplosione di un proiettile all'uranio può sviluppare il calore necessario a generare queste nanoparticelle. Poi nel 90 uno studio dell'americana SAIC descrive i rischi derivanti dall'inalazione delle micropolveri, cioè due punti, l'organismo le isola in un conglomerato di cellule che potrebbe ingrandirsi fino a diventare un tumore, pertanto l'uranio è sconsigliato perfino per la salute dei soldati che lo sparano. L'anno dopo l'uranio viene definito politicamente inaccettabile, ma il Pentagono solo dopo la sindrome del Golfo del 91, cioè 90.000 malati tra i reduci, prenderà finalmente i dovuti provvedimenti. Non te la ricordi? Andrei. Pertanto, è per questo che dal 93 in poi gli americani nei teatri di guerra dove è stato sparato uranio saranno sempre protetti da speciali tutte protettive, le uniche davvero efficaci, gli italiani invece mai. Anche se quelle stesse disposizioni furono inviate a tutti i paesi NATO, Italia compresa, la prima ufficiale il 16 agosto 93 proveniente dal Dipartimento dello Stato americano USA, un'altra il 14 ottobre 93 per le forze NATO impiegate in Somalia, anche se a tutti gli stati maggiori della NATO arrivarono nel 95 un video informativo sui rischi di quei proiettili, il 2 agosto 96 un manuale di addestramento sulle munizioni non era impoverito perché fossero trasmessi ai soldati, ma il 17 aprile 99 il maggiore Marani dichiara che i proiettili all'uranio impoverito non comportano alcun rischio perché la loro radioattività è come quella di un orologio, e il ministro Giovanardi dirà che l'uranio è solo un falso problema creato dalla stampa. E allora perché ai soldati italiani in Kosovo arrivano alcuni memorandum, il primo il 22 novembre 99, poi il 26 maggio 2000. È quella che ho detto io nella prima scena. Che scommettiamo, mi suggerisci? Ma sei scemo? Beh, comunque, 2000, quindi dopo mesi che i soldati sono là, contenenti disposizioni sommarie, un mini-kit di protezione mai visto dai soldati, cosa è, portano con te e basta, e l'invito ad usare protezioni come filtri e guanti che non sono stati forniti, delle due l'una, o l'uranio fa male, quindi non ti limiti a disposizioni sommarie, dopo sei anni che ti hanno avvisato, dopo mesi che i soldati sono là, che prescrivono l'uso di protezioni che non ci sono e per le quali comunque non c'hanno addestramento, oh l'uranio non fa male, come dice Giovanardi, allora ci vai in maglietta a sminare, tutti a mare, tutti a mare. La spiegazione, il compromesso all'italiano, cioè non puoi fornire ai soldati speciali tutte protettive usate solo in zone di pericolo e di guerra, se no mandi all'aria il brand missione di pace, poi la devi chiamare per quello che è e le mamme italiane preoccupate non ci mandano più i figli, ma proprio zitto proprio non puoi stare, passi per lavativo, e allora una circolare la mandi dove dici genericamente di stare attenti e di insomma cautelarsi evitando di sollevare polvere, ma se il Ministero della Difesa ha ignorato il rischio con l'assenso del governo ha comunque deciso di impiego senza precauzioni, allora si configura omissione colposa da parte dei responsabili. Il codice civile prevede articolo 2087 che il datore di lavoro, cioè l'esercito, deve ottemperare gli obblighi di sicurezza del lavoro, se non lo fa esercitando la salute e deve rispondere anche in sede penale con pena reclusione fino a 10 anni. Ma vieni! Sotto! Suca! sì, pronto? Sì. Scusa se non ti ho chiamato prima. No, sono impegnato. Ah, senti, quei due matrimoni che dovevamo fare, io non posso venire, mi dispiace. Quanti matrimoni ti ho fatto? Ne abbiamo fatti tanti. No, stavolta non posso. Come? Sono col mio amico Pasquale, l'amico che ti dicevo, stiamo facendo teatro, no? È una cosa molto interessante, voglio curarla bene. Ti ho detto che non posso venire. Tu non capisci niente del viaggio, chi mi dici? La terza parete scialista la conosci? Allora, ti ho detto che non... sabato questo? Che c'è? ufficiali dell'arma, perché c'entra? Ah, la figlia si sposa. Allora su chi ne esordi, Chris? Su Rick? 800? 800 euro? Aspetta, aspetta, che io ne parlo con Pasquale, mo che arriva, vedo di spostare le prove, cerchiamo di... Non mi farà così, mi fai incazzare quando fai così. Prendi la piscina, ti chiamo subito, ci sentiamo brevemente, adesso ne parlo con tutti, mi farà così. Va bene, ciao. Ma vieni! Notiziona, tieni forte! L'assessore è interessato, ci fanno fare lo spettacolo nella rassegna estiva, capito? Cioè, Natalia ha detto, assessore, stiamo lavorando un testo sull'uranio impoverito. E lui, ah, bello, uno spettacolo sulla crisi economica. Poi, vabbè, bisogna fargli capire un po' di che si tratta. Però, tanto mi ha chiesto un video. Si paga le spese, ecco. Però, vediamo i giornalisti. I critici recensiranno il primo spettacolo sull'uranio impoverito. La cosa... Sai che aspetta? Sì, sì. Poi, no, comunque, pensavo di filmare la scena dell'avvocato Tartaglia al processo Vacca, che quella è una parte un po' più politica, magari interessa di più, ci ho fatto tutto un lavoro sul personaggio, insomma, mica. Quindi, vabbè, le musiche le sai, io ti do il via, Signor giudice, è d'uomo ripercorrere l'iter della commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito. Nel gennaio 2001, dopo lo scandalo Comister, la difesa istituisce una commissione ministeriale presieduta da un professor Mandelli. Nel 2002, la relazione finale della commissione consiglia di proseguire un monitoraggio ampio e dettagliato, ma conclude che non è scientificamente dimostrato un nesso causale tra queste malattie e l'uranio. E quindi niente indennizzi, né affitti e né apparenti. E come l'hanno stabilito? Statistica. Confrontando la percentuale standard di soggetti colpiti da tumore nella popolazione italiana con quella dei 43.000 malati tra i soldati di Balcani, risulta che un tasso di incidenza di tumori tra questi militari è il complesso solo un po' più alto del normale. Ma tra i 43.000 considerati ci stava pure un maresciallo leggero che in botte è stato 2 ore a cambiare i coppole, è così, no? E signor giudice, se spazzano tutti i dati, bisognerà portare quel numero di malati, non con 43.000, ma con molti meno, e vi sottrarre quelli che sono stati là solo come scalo per andare altrove, 5.000 mandati in Macedonia, quelli non hanno usato uranio, poi quelli che dopo il memorandum con qualche precauzione l'hanno presa, e soprattutto certi nomi calcolati 3 volte, e così. Vedi, invece che, calcolando correttamente, risulta una percentuale di incidenza superiore e inquietante. Del resto, così si è espresso l'onorevole Ballamagna della Lega, che ha detto, la commissione, cioè non qualche falla così, però la commissione Mandelli è un'autorevolissima commissione pagata da un ministero della difesa per giudicare un ministero della difesa. E la Lega è così, semplice ma efficace. Perciò, nel 2004, dopo varie richieste, ne si insedia una nuova commissione. Stavolta però essa è parlamentare. Guidata dai senatori Franco e Fucciri, invece lavora, analizza dati forniti anche da altri, produce una relazione finale dettagliata, estesa pure ai civili dei paesi, propone leggi, ma soprattutto appare lontana da certe pressioni di ambiente che, insistendo ancora sui vaccini, portano al sostegno di questa tesi. 2 dati peraltro veri, cioè l'assenza di biopsie, di uranio nelle biopsie fatte ai soldati e la bassa radioattività di questo materiale. Ma l'audizione alla professoressa Gatti chiarisce tutto, cioè le nanoparticelle trovate nei tumori e nello sperma dei soldati non sono di uranio, bensì cromo, ferro, zinco, ma non esistendo in natura di quel tipo, tantomeno possono trovarsi nel corpo umano, quindi se ci sono, sono stati inalati dall'esterno e solamente l'uranio esplodente può generare un calore necessario a creare nanoparticelle anche di altri metalli presenti di indurage dell'esplosione, eppure chiste letali. Qua la radioattività sì, è pericolosa, ma ma sei inalato dall'interno, quindi se ti ha respirato tu lì, uranio impolverizzato, insomma, concludo la carta che dice non cambia niente. La causa è sempre uranio, ma non è un killer, è un mandante. Vabbè, poi vabbè, la commissione interrompe i lavori quando nel 2006 decade un governo, bello scoglio. Ma un governo Prodi ne viene istituita un'altra, la seconda commissione, la mandava di Pietro Uranio, presidente, senatrice, meno pace. Le precedenti commissioni non avevano dimostrato un ex causale tra malattie e uranio. Questa invece inverte l'onere della prova. Cioè, non potendo confermare, ma neanche escludere un legame con l'esposizione all'uranio, questa commissione preferisce adottare un criterio di probabilità. Cioè, la patologia costituisce di per sé motivo sufficiente per il ricorso agli strumenti risarcitori. È per questo che dal 2008 si stanzia un fondo di 30 milioni di euro come indennizzo per una categoria creata ad hoc, le vittime dell'uranio. Ale, rompiamo tutto, sì! Ma perché ti fermare con la musica? E dove cazzo vai adesso? Certo, pure adesso! Mimmo, io mi sono rotto lo standazzo, eh! Sbagli le musiche, non fai ricerca! Ieri non c'eri, esci quando ti pare, prima adesso dobbiamo accogliare! Io mi sono rotto di questo atteggiamento! Adesso la rifiniamo, stai lì! Ti dovevi andare a suonare un matrimonio, dovevi andare! Come suonare? Mimmo, se esci, puoi anche non tornare! Ma questa è proprio la goccia che proprio riempie le palle, Mimmo, scusa! Io ho rifiutato 6 mesi di tournée pagata del Mille Esplodioso. 6! Sono soldi, eh! Se per te deve essere un problema, lo dicevi prima. Adesso stai lì e si prova. Poi il monologo di Sepe, quello che non ti piaceva, non è troppo retorico. Ho fatto le 3 per cambiarlo. Scusa, ma adesso proprio quando... Perché c'è? Stai bene? Sì. Ah, allora suona. Anzi no, mi fai una cosa prima. È troppo lunga questa pagina dell'avvocato, devo tagliare. Quindi, l'ho detto, la filmiamo un'altra volta. E poi dopo andiamo direttamente al monologo di sera. Vabbè, quindi stavamo che viene creato un fondo per le vittime dell'uranio. Questo no. 2 punti. Del resto, negli anni precedenti, si istituirono fondi per risarcire anche altri tipi di caduti militari. Tra virgolette, vittima del dovere oppure vittima del terrorismo. Scrivi presto. Tutto risolto? No. La domanda per avere l'indennizzo come vittima dell'uranio la fanno pochissimi. Virgola. Questo no. Perché anche se tuo figlio rientra in questa categoria, non ti conviene. Per le vittime uranio è prevista solo una speciale elargizione, per le altre anche un assegno mensile. Poi la pratica per l'uranio ha complicazioni che le altre categorie non hanno. Hai solo 6 mesi di tempo, il tuo caso deve rientrare in una speciale graduatoria, virgola. Devi provare che ci stanno le nanoparticelle nelle biopsie, che può farlo solo la Gatti col suo nanoscopio. No, nanoscopio. Nanoscopio. No, questa non la diciamo, tanto non ci crederanno mai. Però secondo me è proprio inutile sta parte, lo so, tra l'altro. Perciò chi vuole ottenere qualcosa, giustamente presenta la domanda come generica vittima del dovere e spera. Quindi, poiché nessuna domanda per l'uranio ha tutt'oggi completato l'iter burocratico, nei registri ufficiali risulterà pure un numero di vittime uranio pari a 0. Dato che la Commissione ha allargato le ricerche anche ad altre possibili cause delle malattie, viene un dubbio. Scrupolosa volontà di ampliare gli studi o a qualcuno interessa riproporre l'ipotesi vaccini così a pagare non sarà il Ministero? Qualcun altro sostiene poi che le malattie dipendano dall'abuso di fumo e alcol tra i soldati. Da tutto questo mi assistiti chiedono giustizia a questo tribunale civile. Mettiamo. Pasqua, io la farei più breve perché se non è gente, non mi pare. chiamo Luca Sepe, di Napoli. Torno dal Kosovo e mi trovano un linfoma di Hodgkin. Mi sono informato. Linfomi, leucemie, cancro ai polmoni sono le malattie più diffuse tra noi della sindrome dei Balcani. Non so neanche io quanti siano. In questi anni solo su una cosa erano tutti d'accordo. Che aumentavamo. Ma la cifra ufficiale del Ministero è sempre un terzo di quella denunciata dall'osservatorio. E del resto che importano i numeri se le storie sono tutte uguali. Vacca, Antonacci, Sete, Di Raimondo, Melis. Detta una, dette tutte. Un rito funestato dall'assenza di varianti. Torni, poi la tosse. Se capisci cos'hai, cominci a pagarti le cure, da solo non ce la fai, i genitori vendono tutto, perdono il lavoro, puoi starti dietro economicamente. Inutile. Contro queste pallottoline silenziose e devastanti. Ma l'eccezione c'è. Emerico. Emerico l'accetta. Ufficiale della Croce Rossa. Nel dicembre 2000, dopo la Bosnia, gli fanno un attacco. Gli dicono di passare bene quell'ultimo Natale perché sui polmoni ha una massa tumorale grossa come un feto di 7 mesi e così pochi globuli bianchi che puoi chiamarli per nome. Ma lui resiste. Alla chemio e al resto. Adesso è ad Haiti ad aiutare i terremotati. Io, nel novembre 2003, c'ero ancora. E allora vado a Roma per assistere ai funerali di Stato delle vittime di Nasseria. Vabbè, ero una larva. Ma potevano farmi passare. Avevo anche la divisa. Ma quelle sono le vittime da mostrare al mondo. Ma io da lontano non le vedevo. Poi salgo su un paracarro. Pietà, commozione, no, invidia. Per loro lo Stato ha disposto quasi subito un assegno di 200.000 euro ai parenti. A noi anche la sola causa di servizio spesso arrivava tardi. Capiamoci, non sono i soldi. Ma mio fratello con la missione studiava in università e adesso in famiglia non c'è più niente. Ma il punto è un altro. È da un po' che questa storia la guardo da lontano. Ho visto addirittura il comitato anti-uranio spaccarsi, dividersi, accuse reciproche, di speculare sulle vittime. Parte bollate. Forse sono fraintendimenti perché poi nel merito sembrano d'accordo. Ma sta storia dove va? dove va? Se diventa solo una questione di soldi. Viene meglio con l'armonica? Vabbè, Mimmo, scusami per te, ma... Vai, veramente, scusami. Scusa tu. No, vedi di capire, io ho tutte queste cifre, sbarello. Qua l'argomento è importante, il tema è delicato. Qui c'è un rischio di denuncia. Se sbagli altro che il teatro civile, è teatro penale. Che... No, però c'è ragione. Siamo stanchi. Sì. Ci serve una pausa. Facciamo così. Ci diamo 4-5 giorni di riposo e poi ricominciamo. Ci si vede lunedì mattina. Alle 11. Così intanto mi leggo queste sentenze. Però documentami pure tu, non farmi fare sempre tutto a me, ti prego. Sì, hai ragione. Ti prometto da studio. Sicuro? Sicuro. Scommettiamo. Scommettiamo. La birra. La birra. E poi su tre. Va bene. E poi ieri da Di Girolamo ci volevo venire. Di Roma, di Raimondo. Però non mi sono la sveglia, posso? Vabbè, dovevi venire perché è stato forte, è importante. Ma mi ha spiegato che forse il vento sta cambiando. Cioè che l'uomo ha bandito adesso l'urano impoverito. Chi lo userà lo processano come criminale di guerra. Poi adesso c'è una terza commissione che magari semplifica tutto questo percorso per avere gli indennizi. Però è proprio la sentenza di suo figlio, guarda, questa è storica. Questa è del 2009, sentenza di suo figlio, perché il Tribunale Civile di Roma per la prima volta ha riconosciuto l'uranio come causa chiara. Cioè ha condannato il Ministero della Difesa a pagare alla famiglia più di 1 milione di euro come danni morali per la morte. La stessa cosa per altri tre processi. Cioè ovviamente sono cifre alte perché sennò a pagare quei soldi a tutti diventa la finanziaria. Però magari poi scatta pure il penale, perché c'è la frase del Miles Glorioso. Vabbè, cioè per dirti, comunque, c'è un clima politico adatto adesso per far sospettare. C'è proprio bisogno. Però mi devi aiutare! Se no fa tutto da solo, io impazzisco e poi mi caso con te e non voglio. Vabbè, se devi andare a un matrimonio, dimmelo. E magari ci siamo elastici, ci si organizza, incastriamo il matrimonio. Che patrimonio? T'ho detto che la faccio sta cosa con te, e la faccio. Ok, te lo dicevo se magari era, cioè, ti serviva una cosa. Dico quello che ti sto dicendo. Facciamo un musical. Hai fatto una ricerca, ho visto che i militari che sono morti in questa vicenda qui sono tutti, quasi tutti della Puglia, della nostra terra. Quindi, con un legame con la tradizione popolare, con la musica, usata, pizzica, tarantella, l'uranio, veleno dell'uranio, veleno d'uranio. Dietro un'orchestra di organetti e tamburelli che suona tarantella, titolo Lu ragno impoverito. Bello, eh? Bello, bello. Vabbè, la forma poi la vediamo, l'importante è quello che diciamo, l'importante è che si è svegliato. E poi, vabbè, lo sai che sto scoprendo un sacco di cose vere, documentate, che nello spettacolo non diciamo. Che dobbiamo dire? Cioè, per esempio, però, non so, se tu prendi, che ne so, una cartina del Kosovo, dove indica i siti dove hanno bombardato l'uranio impoverito, e un'altra, con la divisione delle zone per ogni contingente nazionale fatta dagli americani dopo, tu vedi che gli italiani li hanno mandati nella zona più bombardata, gli americani si sono presi quella meno bombardata. No, però questo non lo dico. Drammaturgicamente è troppo prevedibile, è proprio diventato drammatico. Vabbè, però, per esempio, non so, la RAI ha commissionato a un certo Donofrio un documentario sull'uranio impoverito. Lui l'ha fatto, l'ha consegnato, però gliel'hanno mandato in onda dopo 6 anni. E sull'uranio impoverito la RAI ci ha fatto anche una fiction, che però è stata interrotta in fase di lavorazione perché è ritenuta diseducativa, e al cui posto ne hanno fatta una su Erika di Novi Ligure. Poi nel 2007, nella finanziaria, era prevista una voce di spesa per le vittime dell'uranio, però nella notte, tra una votazione e l'altra, questo indennizzo è sparito. E sono cose da dire queste qua. Cioè, poi vabbè, poi c'è tutta la questione dei poligoni di Pio, no? Dei poligoni, Torre Venere a Lecce e Terras del Fuoco in Sardegna. E lì non sai cosa sparano. Guardate che nel paese del comune sardo, e lì c'è, insomma, il 65% dei pastori, il 20% della popolazione c'ha il campo, sono stime da lager, e praticamente il sindaco se ne è interessato, Antonio Pini, però l'hanno fatto fuori. Il partito non l'ha più ricandidato, poi vabbè, due giornalisti che si sono interessati alla sindrome di Guirra gli hanno bruciato la macchina. La stessa cosa a Calcano, hanno bruciato la macchina. A Lecce pure, al poligono di Lecce, Torre Veneri, c'è un pastore che ha trovato questo cassetta con dei proiettili strani, però gli hanno detto fatti i cazzi vuoi. Poi ovviamente Salento e Sardegna hanno in comune un'altra cosa, perché da queste due regioni proviene sia il maggior numero di vittime dell'uranio, sia il maggior numero di vincitori di Amici della De Filippi. E questa è una relazione che io indagherei. È importante. Poi vuoi dire questa cosa? Ah, sono a casa di Luca Sete, quello lì di Napoli. Mentre lui stava morendo in ospedale, arriva, ci sono solo suo fratello, due carabinieri con un contatore Geiger e un accendino, e gli dicono, dacci la tuta di tuo fratello che la dobbiamo bruciare per vedere se sprigiona uranio. La facciamo per lui. Il fratello fa, con l'accendino. Il triossido di uranio si può sviluppare solo da reazioni a 700 gradi, al massimo a 350, qualora venga fornita la reazione monossido di carbonio. Bello, tu che cazzo ne sai? Studio chimica all'università, cioè studiamo, cioè questa è una cosa. Ah, aspetta, poi vuoi dire sta cosa qua? Cioè che questo governo qui, no, si è fatto primo gennaio 2010, articolo 9,4, che cancella ogni eventuale responsabilità penale, testuale, non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni connesse alle operazioni svolte nel corso di missioni internazionali il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quanto tenuto. Cioè, formulato così, scagioni pure i gerarchi di Norimberga. Ci aggiungi poi che in Italia ci vuole la certezza per il penale e ci ottieni che per questa storia nessuno farà un minuto di galera. Ah, poi un altro, Fabio Maniscalco, era un soldato in Kosovo, prende un campione di terra che dice, lo faccio analizzare in Italia quando torno. Gli si avvicina uno, poi che più con le cattive se lo fa ridare, e si scoprirà che questo qua è uno dei servizi segreti. Poi c'è un giornalista, Maurizio Torrealta, che ha scritto un libro dove sostiene che tutta questa storia dell'uranio è solo una manfrina per coprire il fatto che gli americani in queste guerre hanno usato delle piccole atomiche. E se lo vai a provare, altro che WikiLeaks, cioè salta nei rapporti internazionali. Vabbè, l'ipotesi è fantascientifica, però intanto pure i giornalisti che se ne sono interessati danno delle dati. E poi il maresciallo Leggero, quello lì, c'è la gente che di notte, proprio di Napoli, davanti casa gli hanno fatto esplodere una bomba di 2 kg di tritolo. La stessa cosa è successa all'avvocato Tartaglia, no? Quelle senti, su... senti. Ma per forza sull'uranio dobbiamo fare non possiamo farlo su un altro argomento. Stai scherzando? No. Ma fammi capire. Ti stai cagando sotto? No. No, dimmi. Ti stai cagando sotto? Ti caghi sotto? No, c'è un'altra cosa. Ah, certo, adesso anche le scuse troviamo. Cioè, due mesi di prova, adesso vogliamo tutto appuntare perché tu ti caghi sotto. Bimbo! Bimbo, io non ti capisco quando fai così. Bimbo, non sono un pericolo, sono il motivo per cui fare lo spettacolo, queste cose che ti ho detto. Poi, Bimbo, per fare teatro ci vogliono le palle. Se non ce l'hai, torna a suonare i matrimoni. Bimbo, se fai così io ci resto di merda. Va bene, di merda! Io sto aspettando, cazzo, ormai lo voglio fare! Ma secondo te non lo so che avremo dei problemi? Ha cominciato stamattina, ha cominciato l'assessore, ha visto il video, ha detto che non gliene frega niente. Ma chi cazzo se ne frega? Io lo faccio all'aperto, sto spettacolo! Lo faccio in un centro sociale, lo faccio dall'altra parte, sto spettacolo! Lo faccio da un'altra parte, non me ne frega niente! Ma fammi finire, gatto! Lo sai cosa mi dicono quelli cui parlo di sospettare? Che è una puttanata, perché il teatro civile si fa su una cosa dopo un po' di tempo, quando si è sedimentata, per dire Ustica, 81 morti, sono lì, non ti aumentano, poi dopo fai lo spettacolo, qua invece cambia tutto, le commissioni, e cambia sempre la lettura, e poi no, e ti muoiono ancora, che ti muoiono ancora, che discorso è? Che problema è? Io magari, non lo so, il sito dell'I, dell'osservatorio, io sto facendo il monologo delle cifre, dove dico che a tutt'oggi l'osservatorio conta 190 morti e 2578 feriti, poi vado sul sito, tac, e mi è morto l'altro. Ma qual è il problema? Che lo devo imparare a memoria di nuovo? Chi se ne frega? Ma Mimmo, è proprio perché questa storia è un casino che nessuno ci ha mai fatto lo spettacolo. Ma è esattamente il motivo per cui andare avanti. Io non voglio fare uno spettacolo bello, lo voglio utile. Che posso intervenire adesso, sul presente! Dobbiamo insistere, perché siamo i primi, gli unici a dare una voce! Ma non siamo i primi, ce n'è già un altro! Come? Ieri sera su YouTube ho visto uno spettacolo sull'uranio impoverito. Che cazzo stai dicendo? Mi sono controllate tutte le locandine dei teatri, tutti, di quest'anno, degli anni scorsi, non è tutte. Dei teatri, è un monologo teatrale che hanno portato anche in televisione. Indovina chi lo fa? Marco Paolini! L'uranio è un metallo, simbolo U, numero atomico 92, scoperto nel 1789, l'anno della rivoluzione francese, da un tedesco di nome Klaproth. Ora, se tu scopri un metallo, un elettrouranio si trova come ossido in natura, di solito viene lavorato producendo una pasta giallastra che gli americani chiamano yellow cake. Questo metallo va separato nella presenti nel campione di malati esaminato dalla commissione Mandelli, che però conclude il primo rapporto dicendo non c'è, però meno male che ci hanno ridato lo stipendio. Sì, siccome è riconosciuta la causa di servizio, no, la pensione no, no, il comitato per le pensioni quella non l'ha data. Ma qui polvere ci vende dappertutto. No, state attento che dentro ci sta l'uranio, un sottufficiale italiano che si chiama Mimmo Leggero. Ente ufficiale da cui risulta che i soldati in servizio in Bosnia sono 28.000, non 43.000. Padre contro Bush padre, la guerra delle bombe intelligenti che corrono dietro all'obiettivo. Ti sei mio, te copo, non so mi. Grazie, il vero applauso non è per me, ma è per gli sposi. E viva gli sposi! Bacio! Mi è piaciuta la canzone di Gigi D'Alessio, non dirgli mai. Adesso ne facciamo un'altra, Facciamola di Galli! No, ma di gruppo dopo il dolce, mi diceva qui l'organizzazione. E vedo che vi state divertendo, Ma anche lì in fondo i bambini si divertono con il mago Pasquale. Bravi. Allora, niente, no. Ho ricevuto una richiesta un po' strana da parte dello zio della sposa. il signor Nicola, che mi... maresciallo, che tutti i carabinieri si dica. No, è una richiesta un po' strana, perché? Perché, va bene, capisco che è una giornata di gioia, di festa, ho capito. Però questa canzone è dedicata a tutti i militari che ci hanno lasciato nelle missioni all'estero. Io non so se è il momento, se mi sembra il caso. La facciamo? Me la sentite? Va bene. Ok, andiamo. Allora, Simone, per favore, vai col dischio. Gentile pubblico, applausi.